sì e no, perché speriamo tra una mezz'oretta avrò un collegamento in Italia con la Ste, la famosa bresciana, speriamo che riesce a mettere da parte qualche minuto per parlare con noi. Qualità di musica, guarda, la classifica l'ho un po' distorta questa settimana, metterò un paio di canzoni che mi piacciono questa settimana, non avrà a che fare con la classifica, anche se più o meno saranno le canzoni che sono state in classifica, però vi metterò, sentirete a Bebè con Malo, sentirete Me Vuoi di Giulietta Venegas, sentirete canzoni che sono state nella classifica quest'anno e sentirete anche qualche canzone in inglese, perché sai come sono io, sai come sono fatto io, sapete come sono fatto io, sto parlando a tante persone, non soltanto a una persona, quindi dovrei usare il plurale. Dunque, come state? Spero bene, quasi Natale, che cosa vi sta portando Babbo Natale in questi momenti? Dove sarà? In questo momento secondo me sarà o in Adelaide oppure a Melbourne in questo momento, starà facendo un po' di strada, ci piegherà un po' di tempo prima che arrivi a Sydney, poi c'è brutto tempo al momento, dovrà andare più lentamente. Vi ricordo comunque che, non so come si dice esattamente il termine in italiano, ma questa settimana, come fino alla settimana prossima, sulle nostre strade la polizia stanno sorvegliando, come è giusto fare, e state attenti di stare entro i limiti di velocità, perché perderete il doppio dei punti sulla vostra patente se andate oltre il limite della velocità. Ve lo ricordo, è una cosa specialmente importante da ricordarsi in questo periodo, perché sta piovendo come se fosse inverno. Ma che schifo di tempo però, ma che estate del cavolo è questa? Se non mi sbaglio, l'anno scorso è stato anche un po' brutto, diciamo, perché non diciamo che proprio ha piovuto tanto, ma caldo non è affatto tanto. C'è stato, mi ricordo comunque, il giorno di primo gennaio che faceva tipo 37-38 gradi. Ci sono state giornate qui e là che hanno fatto caldo, ma niente come l'estate di anni passati. Speriamo comunque che questo tempo cambierà una buona volta. Ci dicono sempre, quando fanno le previsioni del tempo, che sì, guarda, questa è l'ultima passata d'acqua, l'ultima passata di vento e freddo, e poi arriverà il caldo. Ma che cosa stanno dicendo queste persone? Dov'è questo caldo? Porca miseria. Comunque, eccomi qua, l'ultima puntata dell'anno, spero che vi siete goduti questa trasmissione, questo programma, nell'anno che quasi fu. Che cosa farete per Natale? Beh, fatemelo sapere tramite email, cioè ciao ragazzi 2rrr@hotmail.com, oppure potete chiamare lo studio al 9816 2938, e vi potrei anche mettere in onda. Vediamo chi sta ascoltando questa trasmissione stasera. So che siete in tanti, ma siete timidi come dei piccoli cuccioli. Io ho paura di chiamare la stazione, ho paura, ci risponde Roberto. Comunque, cosa sto facendo, cosa sto dicendo? Sto impazzendo. Comunque, passiamo alla prima canzone. Quale sarà la prima canzone? Dunque, diciamo, la posizione numero 6 sarà una canzone di Neck, una canzone che ha adesso c'era 11 o 12 anni. Sapete di cosa si tratta? Si tratta di Laura Non C'è. Godetevi questa. Ciao ragazzi, sono Roberto, state ascoltando a 2RRR, sono le 23:07 minuti. Eccomi qua, sono Roberto, state ascoltando a Ciao Ragazzi, avete appena sentito un annuncio della stazione. Sì, è un invito a tutti che vorrebbero imparare un po' di più del processo, vorrebbero una piccola formazione vocazionale su come presentare un programma alla radio, sulle varie attività, sulle varie operazioni all'interno di una stazione radio. Penso che avete qualche dubbio se io abbia fatto il corso o meno. Vi dico sì, ma ero un po' sotto l'influenza di stress, lavoro, alcol. pasticche. Che sto dicendo? Che sto dicendo? No, il corso l'ho fatto, mi è piaciuto, ho imparato qualche cosino, ho imparato come presentare questo programma, per esempio, ho imparato le cose che non dovrei dire, cioè le cose che ho appena detto un attimo fa. Dunque, questo programma è l'ultimo programma dell'anno e ascolteremo, a parte la canzone Laura non c'è, che non aveva proprio niente da fare con l'anno che fu, metterò in onda canzoni che hanno avuto un successo in Italia o che sono stati interessanti, che sono stati simboli di quest'anno, tra le quali metterò in onda più tardi nel programma la canzone di Checco Zalone, cioè siamo una squadra fortissima. Perché? Perché il 2006 è stato l'anno dei mondiali, abbiamo vinto i mondiali, guarda che emozione, siamo stati bravissimi, siamo una squadra fortissima e infatti la settimana scorsa Fabio Cannavaro ha vinto il premio del pallone d'oro, aggiudicato dalla FIFA come il miglior giocatore dell'anno, complimenti a lui se ci sta ascoltando. Ehi Cannavaro, come va? Chiama il nostro programma, ci facciamo una chiacchierata, poi magari usciamo un po', ci prendiamo qualche cosina da bere, rimorchiamo un po'. 9816-2938 è il nostro numero, Fabio Cannavaro, se ci stai ascoltando, non squilla il telefono, dai, squilla il telefono, squilla. No, niente. Comunque, anziché perdere altro tempo, io vi metto una canzone che ha avuto molto successo quest'anno di Ligabue, cioè si tratta di Happy Hour. State ascoltando, ciao ragazzi, io sono Roberto, sono le 23:15, che cosa state facendo? Mi state ascoltando? Eccoci qua, siamo tornati in linea, ho messo tre canzoni in onda nel frattempo perché ho avuto una piccola crisi col telefono, non mi prendeva la linea, però adesso finalmente ci sono riuscito, anche se chiamandola direttamente al cellulare, c'ho la simpaticissima, buongiorno, benvenuti su Ciao Ragazzi, che cos'è questa musichetta che sento? È la canzoncina di Natale del Carillon, ti faccio sentire. Dai, dai, forza. Si sente? E come no? Sento la mia voce doppia, il ritorno della voce. Ah, è questo il problema di collegarsi Ma al cellulare. Ma io ho detto buongiorno, in realtà è sera, se non sbaglio lì. E infatti sono le 23:30 qua. Le 11:30. Le 11:30. Sì, esatto. È l'una e mezza di pomeriggio, di domenica pomeriggio. Hai pranzato? No, non ancora, perché oggi è un po' un casino, la vigilia, dobbiamo preparare le cose da mangiare per la sera, per il cenone, erano i vicini di casa e allora no, non abbiamo pranzato. Allora, quindi, a dire il vero. Cosa fate per questo Natale? Come lo celebrate voi? Ma guarda, stasera staremo in casa appunto con i vicini di casa e domani invece ce ne andiamo dagli zii a Montichiari, che è un paese vicino a Brescia. Ok. Capito? Sì. Bene. E come va? Com'è la classifica questa settimana? Beh, questa settimana un po' sto presentando un po' le canzoni che hanno avuto successo su questo programma, che hanno avuto successo in Italia nell'ultimo anno. Ho messo in onda Happy Hour di Ligabue, siamo una squadra fortissima di Checco Zalone. Che brutta, però guarda. Dato che abbiamo vinto i mondiali mi è sembrato giusto metterla in onda. Poi si è sentito Tiziano Ferro Tiziano Ferro si doveva sentire quella canzone. Viene a Brescia? Sì. Davvero? Vicino a casa mia, tra l'altro. Tra l'altro vicino a casa tua, quando? Ma non te lo so dire, mi sa gennaio, però non so bene la data, non so quando. Mi terrò informati comunque. Non andrai a vederlo? Come? Non andrai a vederlo allora? No, sfortunatamente no, perché ho terminato i soldi. Ah, se no? E quindi no. Ok. Non hai amici magari che sono innamorati di Tiziano Ferro che andranno al concerto comunque? No, a dire il vero no, c'è la mia sorellina che gli piace un pochino, però non ci va neanche lei a vederlo. Ah, la sorellina, la Veri. Te la passo se vuoi, con anche lei. Va bene, passala. Aspetta. No, no. Ecco. Franchi! Niente, non viene al telefono, va bene, niente. Mettiamo in onda una canzone e poi vorrei mettere, non la prossima canzone, ma quella che segue, voglio dedicarla più o meno a tutti i nostri ascoltatori, a tutta l'Italia. Cioè vorrei mettere in onda una canzone dei Red Hot che ha avuto successo quest'anno. Sempre i Red Hot, bravo. Sempre i Red Hot. Comunque, stai in linea, Ste, adesso passiamo alla prossima canzone. Eccoci qua, siamo tornati, sono in linea con la favolosa, la fantastica, la gagliarda Stefania. Ma tutti questi aggettivi, ma dai, smettila. Dai, li meriti, sei una grande partecipante della trasmissione, ciao ragazzi. Sì, ma poi so che fate anche altri collegamenti con l'Italia tutte le settimane, vero? Non tutte le settimane, quando riesco a farlo, quando mi va, diciamo, lo faccio. Quando ci siamo... Come? Sentite anche altra gente da altre parti d'Italia, Roma, magari in Sicilia, non lo so. Roma sì, abbiamo avuto la dottoressa Mara... qualche settimana fa. Appena laureata, sì. La conosco. La conosci, ecco, un'amica tua la conosce più o meno. Una mia carissima amica da tempo, sì. Ecco. Infatti la saluto e le faccio tanti auguri di buon Natale e un bacio. Va bene, lo farò sicuramente. Sai che cosa dovrei fare adesso? Dimmi. Io adesso... Andando a fanculo. No, queste cose non si dicono in onda. Scusa a tutti i nostri ascoltatori, ma devi capire, questa ragazza è di Brescia, quindi non è abituata ai costumi normali di tutte le altre persone. Comunque, il tuo gruppo preferito, Stefania, qual è? Sono i Red Hot Chili Peppers. Ecco, e hanno avuto un mondo di successo quest'anno con il loro ultimissimo album. Come si chiama? Qual è il titolo dell'album? Forse mi ricordo male, che dici, Stadium Arcadium? Giusto. Dai, ho vinto la maglietta tipo della radio, no, qualcosa? Visto che ho risposto bene a queste domande. Ti posso ti spedisco una maglietta, una t-shirt con la scritta con una scritta particolare, vediamo quello che trovo. Ok? Perché ho risposto bene a queste belle domande, il concorso. Ecco, hai vinto il concorso, hai vinto il quiz. Quindi, adesso, metterò in onda una canzone che è stata il primo singolo di questo album, ha avuto un mondo di successo, un videoclip davvero bellissimo, dedicato alla storia della musica rock negli ultimi 50 anni. Dunque, hai qualche cosa da aggiungere per questa canzone? No, una canzone bella, giusto farla uscire come singolo, rappresenta bene il nuovo album e direi che è giusto mandarla in onda adesso. È giusto mandarla in onda adesso. Un'ultima cosa, ma perché secondo te stanno avendo talmente tanto successo in Italia, più che da altre parti del mondo, direi anche? Hanno un successo... Dici proprio in Italia, mamma mia, non lo so. Per quale motivo? Non lo so, so che sono molto seguiti sicuramente, ci sono state due date, tutto esaurito, con gente fuori dal palazzetto a cercare biglietti dai bagarini e il successo effettivamente ce n'è tanto, anche fuori dall'albergo c'era tantissima gente, tutte e due le serate, e però perché non lo so, so che c'è questo successo. C'è anche qua su Ciao Ragazzi, quindi adesso ascolterete Dani California dall'ultimo album dei Red Hot Chili Peppers. State ascoltando a Ciao Ragazzi, rimanete. Questa canzone dei Red Hot, state ascoltando a Ciao Ragazzi, il collegamento l'abbiamo lasciato con la Ste. Purtroppo stiamo avendo problemi tecnici col telefono qua, ma è sempre bello sentirla, ha sempre qualche cosa da dire e ogni tanto qualche insulto diretto verso di me. Comunque passiamo a un'altra cosina, dunque la cosina sarebbe COASIT, il Comitato Assistenza Italiani, è un'organizzazione not for profit che opera come centro d'assistenza per la comunità italo-australiana da oltre quasi 40 anni. Dai suoi modesti inizi alla fine degli anni 60 il COASIT oggi continua a seguire i suoi obiettivi iniziali con efficacia, cioè assistere gli emigrati italiani tramite un coordinato programma d'accoglienza e promuovere sia la lingua che la cultura italiana in Australia. Sotto questi due primari obiettivi, COASIT opera grazie al contributo di professionisti bilingui di varie specializzazioni, quali psicologi, assistenti sociali, interpreti, eccetera. Coasit offre servizi di supporto per la varietà di problematiche che potrebbero affrontare membri della comunità italo-australiana, da problemi burocratici, problemi familiari, a problemi di tossicodipendenza e alcol. Oltre ad assistenza con problematiche di questo genere, Coasit si presenta come una risorsa immensa di materiali culturali, con una ampia video e biblioteca, oltre ai suoi eccezionali programmi di insegnamento della lingua italiana, sia giovani che i più grandi. Dunque, questo è Coasit. Per contattare Coasit chiamate il 95640744 oppure potete recarvi direttamente alla sua sede al 67 Norton Street, Leichhardt. Per ulteriori informazioni potete anche controllare il sito web. Cosa sarà questo sito web? Tutti vi sento dire, ma l'indirizzo? Dunque, www.coasit.org.au. E non solo questo, c'è anche l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, organismo ufficiale dello Stato italiano, a quale obiettivo quello di promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana in Australia attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney offre al pubblico australiano i seguenti servizi: corsi di lingua e civiltà italiana tenuti da docenti qualificati di madrelingua, 2 sessioni annuali di esami per ottenere il diploma di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, una biblioteca italiana a disposizione dei soci dell'istituto e degli studenti iscritti ai corsi di italiano per la consultazione e il prestito dei libri, videocassette, CD, DVD, riviste e giornali italiani. Servizio di informazione e documentazione sulla Italia nel campo culturale, per le manifestazioni concertistiche, per alcune mostre d'arte e per gli eventi di maggior respiro, l'Istituto si avvale della collaborazione. Oltre a ciò è un ottimo punto di riferimento per bandi e concorsi disponibili per studenti interessati ad ottenere borse di studio per studiare in Italia. L'Istituto può essere contattato al 9392-7939 oppure per email iicsydney@esteri.it oppure recatevi direttamente alla sede, cioè il 45° piano del Gateway Building a Circular Quay, in centro città. State ascoltando Ciao Ragazzi, il tempo rimasto è di tipo 13 minuti, sono le 23:47. Dunque, vi state divertendo per questa ultima puntata di Ciao Ragazzi? Faccio un breve annuncio in inglese, cioè partirò tra 5 secondi a cambiare la mia impostazione da italiano a inglese. Dunque, 5, 3, 4, 3, 2, 1, hello, and now you're listening to me in English. This is just a quick announcement to let everybody out there who's listening to the show know that next week is New Year's Eve. And what's going to happen at 2RRR on New Year's Eve? Well, you're going to be hearing me, but in this language, funnily enough. You'll know me as DJ Bam. Also, do a show with Honey Lulu Wednesdays at 2 p.m. Well, you'll be hearing the New Year's Eve show. It's a New Year's Eve extravaganza, I tell you. Yeah, it's going to be party tracks, rock and roll, dance happy man music, and what else? What other genres are out there? Oh, there's that's about it. No, you're going to hear a bit of everything. It's going to be a whole collection of tracks that symbolizes 2006 and a whole heap of tracks which symbolize drinking and shaking your booty. So make sure to tune in from, I say I can get in around 9 or 10 through to about 2 in the morning. So tune in to 2RRR 88.5 for all your party needs. Don't tune into the other stations. They play garbage at New Year's Eve. You know it. You've been listening to all the other stations on New Year's and shocking. You'll hear something different on 2RRR, so make sure you tune in. Adesso, come è successo? Sto parlando in italiano di nuovo. Adesso parlo in inglese. Hi, I've changed my setting once again and I'm in English. I better permanently switch back to Italian, otherwise I'll be in big trouble / poo. Click. Ciao ragazzi, ciao, sono Roberto, state ascoltando Ciao Ragazzi. Dunque, la prossima canzone è una canzone in lingua spagnola che ha avuto un mondo di successo in Italia, come in tutta l'Europa, e ha avuto molto successo sul programma Una Dedicazione d'Amor, il programma in lingua spagnola con, volevo dire in cileno, ma il cileno era Jorge Edoardo al momento è anche in vacanza e quindi non si sente il suo programma. Comunque stavo dicendo comunque che la canzone di Bebè, cioè Malo, ha avuto un mondo di successo, adesso possiamo dire in tutto il mondo, e adesso l'ascolterete su Ciao Ragazzi per l'ultima volta quest'anno, almeno che non mi viene la voglia di suonarlo, metterlo in onda la settimana prossima. Quindi state ascoltando Ciao Ragazzi, adesso vedrò se riesco a ricollegarmi con la Ste. Stavo per mettere la canzone sbagliata in onda. Che figura, che vergogna. Ecco, mi sembra che sia questa canzone. Permettetemi di controllare mentre vi metto un annuncio. Cerco un annuncio sul nostro mini disc. Ecco, vi metto un annuncio e adesso cerco la canzone. State ascoltando Ciao Ragazzi. Ma è troppo forte questa canzone, troppo forte, bella questa canzone, mi piace da morire. Mi sa che andrà in onda sul programma di Capodanno la settimana prossima. Dunque quasi la fine del programma, non posso ricollegarmi con la Ste, non fa niente, perché non so, voglio salutare a tutti voi che siete stati dei simpaticissimi ascoltatori del programma. Alcuni di voi avete chiamato mentre che le canzoni erano andate in onda, così che ci siamo potuti fare anche una chiacchierata. Comunque vi ringrazio per essere stati con me, sono quasi 6 mesi che va in onda questa trasmissione, siete proprio stati carini. C'è stata tanta bella musica quest'anno, e a parte il fatto che chiacchiero moltissimo, il programma ha più a che fare con la musica che con quello che dico, ammettiamolo, è più interessante la musica, come sempre. Comunque volevo dire che la settimana prossima sarà una trasmissione da ascoltare, anche se non in lingua italiana, ma ci sarà un sacco di buone cose, ci saranno collegamenti attorno a Sydney con varie personalità che saranno posizionati, diciamo, in zone strategiche per osservare i fuochi d'artificio. E poi che altro, ma ci saranno sicuramente telefonate anche di persone un po' inebriate. Comunque, come abbiamo detto, per questa trasmissione abbiamo sentito un sacco di canzoni che hanno rappresentato più o meno l'anno di musica in Italia. Abbiamo sentito la Happy Hour di Ligabue, Siamo una squadra fortissima di Checco Zalone, ed ero contentissimo, di Tiziano Ferro. Abbiamo ascoltato a Cambierà di Neffa, che ha avuto un sacco di successo quest'anno col suo nuovo album, e anche Dani California abbiamo appena ascoltato. Bebè con Malo, adesso vi lascio augurandovi un buone feste, perché non c'è solo Natale, ma ci sarà Capodanno la settimana prossima. Speriamo che arrivi il caldo. Dunque, l'ultima canzone che vi presenterò non ha molto a che fare con i grandi successi di questo anno, ha più a che fare con, è più una canzone stagionale. Non so se sarà ricordata come una canzone del 2006, particolarmente, comunque una canzone di Natale. Si tratta dei Subsonica con Coriandoli a Natale, una bellissima canzone. Adesso vi saluto, grazie per avermi ascoltato, mi ascolterete anche l'anno prossimo, almeno che non succede qualche cosa di disastrosa a me, speriamo di no. Dunque, ciao ragazzi, ciao, siete stupendi.